ops. Tu non c'entri un cazzo con l'hip hop. Uccido la traccia, manda Nox. Questa è una minaccia, manda Kof. Come? Non ci siamo stati per un po', ma oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Cosa vuoi da me se l'ho fatto per primo? Se ora combatto per farmi un altro destino. Se quando tu rappi, fratello, un atto meschino. Sto in alto ma stupefatto che sbrasso un litro di vino. Quello è il mio stato, risponde e dico cosciente. Che quella gente per niente riconoscente. Se davanti fingono e non ti dicono niente. Poi senti i pezzi che spingono e niente di competente. No. Beh bro, schiaccio tipo LeBron. Caccio sempre il peggio. Non mi senti fare il pezzo allegro. Sempre mezzo negro, negro. Sulle strumentali fra mi spuntano le ali tipo Legion. Se mi uccidi trovi solo la mia salma fatta. Voci in testa in coro però fuori calma piatta. Gli incubi che faccio li difendo spada tratta. Resti identico e non mi dimentico la strada fatta, sì, frate. Però no, parli tanto del mio flow. Già lo so ti stai agitando perché ne vorresti un po'. Gli unici gioielli che ho sono sotto la cinta. Porto la grinta, il tuo colpo è una pallottola finta. Liricamente spedito e non ho tolto la quinta. Spingo col fuoco nel dito tanto che ho sciolto la cinta. Già sai, mi ci butto a banzai. Frate quante chance hai se ti prendo a punchline. Provincente Dark Knight, tu attinente ma dai. Spingo questo verso forte verso l'infinito ed oltre Buzz Light. Praticamente sto in una stanza chiusa. Liricamente fra sono manza musa. Sto tra la gente ma con la faccia fusa. Per me non vale niente come una traccia chiusa. Ops, tu non c'entri un cazzo con l'hip hop. Uccido la traccia, manda Nox. Questa è una minaccia, manda Kof. Come? Non ci siamo stati per un po', ma oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. A-N-T-H-E-M, from a quale teacher. Spacco anche senza il DJ. Io le micce, flow che vince, schema stitch. Mica spinge, metti ma arriva con un AK. Pincher, contro Pitbull, contro Kitch. Dici in tutto, tutti a pippe, hitman. Big bang sulla traccia, solo shitman. Sono sick rap, sopra kick, tu sei triste. Dici che dovrei fare la old school. Dico falla tu se la vuoi fare. Tu dici che chi non fa la old school, bro farebbe prima da canare. Io lo faccio perché lo so fare. Tu non prenderla sul personale. Visto c'è in un modo colossale. Gli altri sul fondale colossale. Sick nig, lascio nell'olio bollente ogni rapper e attendo che si friga. Si bimba, schiaccio demoni con niente. Tieni la mente, voglio che si spinga. Solo me, voglio solo l'antem prima. Lo so, ne sono uscite tante altre prima. Lo flow non lo compri con le carte. Mica trema perché questo è solamente un'ante prima. Hai capito male, non voglio capitolare. Fin dall'inizio del gioco io gioco da titolare. Se era capito dal titolo che questo primo capitolo non l'avreste capito, bro, mica è finito male. Ups, tu sei anti-flow, anti-pop, anti-flop. Sopra i quarti parti solo se c'è l'antipop. Oggi paghi stronzo. Questo è quanto siamo il top, bro. Mix hit code, mica party rock. Ops, tu non c'entri un cazzo con l'hip hop. Uccido la traccia, manda Nox. Questa è una minaccia, manda Kof. Come? Non ci siamo stati per un po', ma oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Oggi paghi stronzo. Come ne sbatto il cazzo di te, del tuo più, delle più che fai. Caccio quello che c'è in testa, dimmi tu che fai. Scaldo il mic, man, rimo Fahrenheit. Quale mic, ma non toccare, dai. Giro con rude nice, tu che scuse hai, live. Tipo Pottergeist, line che ti fotte i bite. In testa più numeri che alla snice, dai. Oppure bye bye, prendi male, sei una wifi.